Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova puntata con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Con te Carlo parliamo di un argomento che credo sia di assoluto interesse e non solo per il Veneto ma per tutta l'Italia, e parliamo di airbag. Sì, parliamo di un argomento, Francesco, che ci è ritornato in maniera prepotente alla ribalta, perché ultimamente abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di persone che hanno ricevuto una comunicazione da parte del concessionario che hanno l'airbag difettoso, cioè un airbag che in presenza di certi clima come il nostro, dove c'è un alto tasso di umidità, ci potrebbe essere un'esplosione, e quindi con le conseguenze che possiamo immaginare, un'esplosione che è chiaramente dell'innesco del dispositivo, che quindi può far uscire i palloni. E su questa cosa abbiamo avuto diverse persone, perché a distanza di tempo in cui hanno ricevuto la lettera, ad oggi non hanno ricevuto ancora il richiamo e quindi non hanno avuto neanche l'intervento fissato presso i concessionari o i venditori autorizzati. Ecco, quindi il rischio che l'airbag scoppi improvvisamente mentre magari stiamo guidando in autostrada a una certa velocità, immaginiamo lo spavento e quello che può capitare, poi uno perde il controllo della macchina e quindi proprio l'esplosione dell'airbag, che dovrebbe salvarti la vita, invece te la toglie. Beh, in questo caso, guarda, ti leggo quello che scrive la Toyota ai suoi clienti poco tempo fa, dove dicono: i veicoli coinvolti equipaggiati con dispositivi di gonfiaggio airbag prodotti dalla ditta Takata, che è una ditta che comunque costruisce questi dispositivi, possono creare quindi esplosioni. Di là, dopo tutto quello che dice la lettera, conclude dicendo: tale rottura potrebbe proiettare dei frammenti metallici ad alta velocità all'interno dell'abitacolo, con conseguente rischio per gli occupanti di infortunio o lesioni fatali. Quindi chiaramente di fronte a queste dichiarazioni le persone ci hanno contattato e stanno sollecitando da parte nostra un intervento, di cui noi insieme a queste persone stiamo cercando un po' di unire le forze affinché, insomma, questo intervento venga effettuato nel tempo più breve possibile. Ecco, praticamente è necessaria la sostituzione del sistema degli airbag. Sì, bisogna innanzitutto rendersi conto che qua parliamo di modelli costruiti tra l'aprile del 2006 e dicembre 2014 dalla ditta, come abbiamo detto, Takata. E chiaramente uno, per sapere se rientra in questi modelli, adesso noi abbiamo parlato di questa lettera, ma sembra che il fenomeno sia anche più complesso, e una persona cerchi di, tramite internet o tramite i siti che si trova, dove poter verificare anche su quelli di quattro ruote o di autosicura, con il proprio numero di telaio e con il proprio numero di targa, se rientra in questa casistica, e una volta verificato e se purtroppo accertato, prendere subito a contatto con le officine autorizzate o i concessionari. Speriamo che anche il coinvolgimento, insomma, dell'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori, possa servire a velocizzare questo sistema e che vada tutto a buon fine. Sì, è chiaro che non vogliamo creare allarmismi più grandi di quelli che non sono necessari. Noi abbiamo letto adesso una lettera della Toyota, i modelli sembrano che siano interessati alla Corolla, alla Vitis, alla Yaris, appunto prodotti tra il 2006 e il 2014, per cui l'invito è quello solamente di verificare, una volta accertato, ecco, prendere contatto. Diversamente, per chi ha ricevuto la lettera, a sollecitare l'intervento è costo di rivolgersi alla casa madre, oppure ricordarsi, come hai detto tu, che l'Adico è sempre a disposizione degli utenti per poter assisterli anche in queste richieste, che riteniamo più che legittime. Eh beh, assolutamente. Poi importante che non si perda tempo, perché poi se capita la disgrazia, insomma, potrebbe essere veramente fatale per qualcuno. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, dove si trovano i contatti, i numeri di telefono per sentire proprio l'Adico. E a questo punto, Carlo, io ti ringrazio, ti do appuntamento a te o, insomma, a un collaboratore dell'Adico per i prossimi giorni. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci,